Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un saluto affettuoso a tutti i nostri ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Sai che stasera non abbiamo un ospite virtuale, ma l'abbiamo proprio qui in carne e ossa. Sì, decisamente. E si tratta di un ospite, bisogna dire, meraviglioso. Io conosco da quando era ventenne. E così presentiamo il signor Alfonso Beninato, ex sindaco del comune di Silea e di Breda di Piave. Chissà perché ho sempre in mente Silea, non so perché. Ecco, è insegnante della scuola elementare e noi la salutiamo. Caro signor maestro, buonasera. Buonasera maestro. Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. E benvenuto e grazie di aver accettato l'invito di essere con noi stasera. Grazie a voi per la presentazione, non meritavo tanto. No. E grazie soprattutto del maestro, perché è la cosa alla quale tengo particolarmente. Perfettamente. Allora approfittiamo per dare il cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Saluti al nostro angelo custode, e anche a Mirko, certo, anche se qui non è presente in questo momento. Beh, allora, prima di dare la parola al curriculum, per leggere il curriculum del nostro Alfonso Beninato, ti ascoltiamo una canzone come di solito, insomma, ecco. Maggio dovrebbe essere il mese delle rose, e io così ho detto, ma perché non facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori una canzone napoletana? È la prima volta in queste trasmissioni che faccio ascoltare una canzone napoletana. Ed è O Mese del Rose. Mi scusi i napoletani se sono in ascolto, ma io proprio non so pronunciare meglio di così. E la canzone è cantata da Angela Luce. Scontrosa non è. Chi stio mese revase, Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola al nostro Antonio che leggerà un po' il curriculum di Alfonso. Perfetto, un curriculum diciamo sterminato se vogliamo, ecco. Allora lo leggiamo per capitoli. E il nostro ospite nasce e vive a Breda di Piave, in provincia di Treviso. Ambito formativo, si diploma in maturità magistrale conseguita presso l'Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi. Diploma di abilitazione all'insegnamento della religione e diploma di cultura teologica conseguito presso lo studio teologico interdiocesano Treviso Vittorio Veneto nel 91. In ambito professionale e istituzionale è impiegato presso l'Unione Italiana Cechi dal 75 al 76, insegnante elementare, come giustamente ha sottolineato, una qualifica che lo gratifica e lo inorgoglisce, dal 76 ad oggi. Esperto disciplinare dei nuovi linguaggi per l'IRSAE Veneto, Istituto Regionale Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi, dall'87 al 92, Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Intercomunale Struttura Polifunzionale Persone Non Autosufficienti fino al 2002, membro del Consiglio Direttivo del Consorzio BIM di Treviso dal 94 al 96, membro del Consiglio di Amministrazione di Asco Piave dal 2005 al 2011, consigliere dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Treviso dal 2009 a oggi. In ambito socio-politico, sindacalista della CISL Scuola Provinciale di Treviso dall'80 al 90, operatore sindacale presso la CISL Scuola dal 2005 al 2012, vice sindaco e assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Breda di Piave dall'85 al 90, sindaco del comune di Breda di Piave per 3 mandati dal 90 al 2002, consigliere provinciale di Treviso dal 2002 al 2006, membro della commissione diocesana per la pastorale sociale, giustizia e pace dal 97 al 2010, componente del consiglio pastorale diocesano dal 2005 al 2010. E veniamo all'ambito culturale. Direttore e redattore del notiziario comunale Il Comune Informa Breda Notizie dal 94 al 2012. Coordinatore della collana di quaderni di storia e cultura dal 2001. Redattore del giornale online Sindacato di Marca della CISL provinciale dal 2006 al 2009. Docente all'Università Popolare di Maserada sul Piave, Spresiano, Povegliano, Alta Padovana. Componente Commissione Gestione Immobiliare Cafoncello per la pubblicazione Evoluzione Storica dell'Ospedale Civico Santa Maria dei Battuti di Treviso. Membro dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano dal gennaio 2009. Cittadino onorario del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, del numero 41 del 24/10/2008. Socio e membro del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, ANOLF, dal dicembre 2009. E adesso tiriamo il fiato. Alfonso, ne hai fatta di strada dal primo giorno che ti ho conosciuto, eh? Ne ho fatta di strada, ma sono sempre rimasto Alfonso di sempre. Sempre Alfonso di sempre, però ne hai fatto tanta, tanta di quella strada e anche veramente... Poi se guardiamo qui le pubblicazioni, ne abbiamo per i santi apostoli per tutti. Soltanto Servi, del 1992, che dicevi Alfonso che si tratta di un parroco. È un parroco che è morto giovane a 60 anni e aveva lasciato un messaggio proprio nitido, chiaro a tutti noi paesani, che era quello di dire: noi ci mettiamo a servizio, siamo dei servi di qualcun altro, cerchiamo di ascoltarlo, di fare il meglio possibile nella nostra vita. E quindi il titolo del libro ricorda proprio questa figura. Ti ha ispirato qui questo libro? Certo. Poi abbiamo La casa di Dio tra le nostre case, che è del 1999. Certo, anche questa avrei potuto chiamarla semplicemente La storia della chiesa di Pero, però secondo me è una persona che vive profondamente il suo territorio. Ecco, quella chiesa lì è una casa di, certo, Dio. Certo. Esattamente. No? Testamenti illustri del 2001. Testamenti, cos'hai? E qui ci sono due grossi personaggi del nostro comune che erano stati dimenticati. Ed erano gli Olivi e i Dalvesco, e io ho voluto riprenderli, queste due figure, perché mi era capitato tra le mani un vecchio testamento, probabilmente dimenticato, da dove emergeva la figura di questo Dalvesco, una figura eccezionale che io poi ho recuperato anche in un romanzo. Benissimo. Poi c'è Misteri in Villa. Certo. Non è mica un giallo, vero? No, questo è Misteri in Villa, riprende la storia proprio all'interno di questa villa settecentesca di Breda, e il passaggio da quello che era la nobiltà per discendenza, la nobiltà di sangue, a quella che invece è la nobiltà d'animo. Oh, bene. Beh, è un passo da gigante, decisamente. Sì. Meditate che questo è stato 2003. E qui invece andiamo sulla storia della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto su, su delle figure che erano state un po' dimenticate, che erano gli ex internati, che sembravano... Parole di fosse... Primo Levi, si esatto, mi pare di ricordare. Esatto, esatto. Poi abbiamo dal Mediterraneo al Lager, riduzione e adattamento del 2004. Ecco, questo era un vecchio diario che ho recuperato, di un marinaio che ha subito anche lui tutta una serie di peripezie, ed era un peccato che rimanesse... nel nascondimento. Lì, chissà che prima o poi li vediamo duri come rocce. Beh, qui, anche qui siamo una triste vicenda, siamo anche qui dopo l'8 settembre, la vicenda di alcuni ex internati e la loro forza soprattutto. Questo è del 2006, poi abbiamo i carioti della Piave, ecco, che, questo... che edizione del maggio 2006, certo. Poi abbiamo i carioti della Piave, edizione numero 2, che è del novembre 2006, che è quello che tratterai oggi. Questo... Certamente, parlerò di questo. Bene. Poi abbiamo i mulini, i mugnai del 2007, mulino della sega, la prima vittoria sulla Piave dopo Caporetto, certo, del 2007, la prima vittoria sul Piave dopo Caporetto, riedizione con aggiunte del 2008. Poi abbiamo la speranza storica alla Costituente, riferita qui alla Pira, sì. Pensatore e uomo di Azione, sindaco di Firenze, sì, del 2008. Poi l'ansa del Piave, una croce per non dimenticare, del 2008. Certo, un saggio questo. Odissea di un artigliere alpino, del 2008. Questa è una storia romanzata. Però tante nel 2008. Certo. Poi qui abbiamo la ragione del cuore. 40 anni di Avis a Breda, certo, del 2009, il primato della società civile del 2011, due soldati combattenti negli opposti schieramenti durante la Seconda Guerra Mondiale, in quaderni del Risorgimento del 2011, Symphonie du Silence del 2012, e poi abbiamo degli hobby, cos'è il sci? Da discesa, sì. Abbiamo sci di fondo, poi trekking, certo, alpinismo e fotografia. E fotografia. Abbiamo detto tante cose di te. Certo. Ecco, dall'opera che presenta questa sera il nostro ospite, eccetera, volevo leggervi la prefazione. I carioti della Piave. Saletto e Negrisia sono due paesetti, come tanti altri, della campagna veneta, che sorgono lungo la Piave, uno di fronte all'altro. Il fiume che li separa, nel corso degli anni, è diventato elemento unificante, anche se ciascuno ha conservato le sue tradizioni, le sue usanze, la sua religiosità. La gente che vi abita vive in perfetta simbiosi con la sua Piave, condividendone le stravaganze e lasciandosi quasi modellare dallo scorrere delle stagioni e degli anni e dall'avvicendarsi degli eventi. In quest'angolo della Marca Gioiosa i piavoti si distinguono per il loro attaccamento quasi affettivo nei confronti di quello che per loro rappresenta molto più che un semplice fiume. Chi è la prefazione tua? Sì, sì, è lo stesso, l'ho preparata io. Hai fatto tutto benissimo. Tu? Benissimo, adesso ci fermiamo un momento e ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, cantata da Gianni Morandi, Canzoni stonate. Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce, così fresca e strana, che dava al nostro gruppo qualcosa di più. Enrico, che suona, sua moglie fa il coro. Giovanni, come sei? Mi ascolta, stonato com'è. Canzoni d'amore che fanno ancora bene il cuore. Noi stanchi ma contenti, se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche da lì. Siamo andati al lago, ho anche preso un luccio grande che sembrava un drago. Poi la sera in treno abbiamo cantato piano quel pezzo americano che cantavi tu. Canzoni. Eccoci di nuovo in studio. Allora, Alfonso, hai fatto affiggere nel comune di Breda manifesti, che stasera sei qui con noi. Beh, guarda, senz'altro la dirigente scolastica ne è a conoscenza e ascolterà, così come ascolteranno molti miei ragazzi, ai quali ho detto di sintonizzarsi sulle onde della nostra Blu Radio. E io penso che saranno quelli che veramente ascolteranno con tanta passione del loro maestro per radio, pensa, e scopriranno cose inedite oltretutto. Mi auguro di non deluderli. Ah, sì. Assolutamente, no, questo è un pericolo che non esiste. Assolutamente. Allora, ci presenterai questo tuo libro che è intitolato I Carioti della Piave, no? Piave. E sai che io ho saputo da poco tempo che la chiamavate La Piave. Allora, guarda, Gesuina, la cosa è molto semplice. Se io mi ero abituato, avendo una frazione proprio lungo la Piave, diciamo così, Saletto, anche San Bartolomeo, però i veri cittadini della Piave, ecco, sono quelli di Saletto. I rivieraschi. E rivieraschi. Mm-hmm. Non ce n'era uno che quando parlavano assieme a me dicessero il Piave. Per tutti era a Piave, a Piave, a Piave. A Piave. E dopo ho cercato anche di capire perché questo libro, questo romanzo, nasce prima di tutto da uno studio molto approfondito sugli usi e costumi di queste genti rivierasche, soprattutto del Medio Piave, e a me interessava con particolare riferimento alla mia zona, ma è chiaro che lo sguardo è a 360 gradi lungo tutto l'asse del Piave. Allora, attraverso questo studio, prima di tutto ho cercato di capire come vivevano, perché erano così attaccati. Io lo vivevo proprio, questo attaccamento quasi morboso al loro fiume. E in realtà la cosa era molto semplice. Da questo fiume loro ricavavano il legname per fare fuoco d'inverno. Legname per costruire i primi tetti, erano casoni, ma utilizzavano questo legname. Usavano altri tipi di venchi, per esempio per costruire ceste, qualsiasi tipo di contenitori. Andavano a pescare, allora veramente il fiume dava molto pesce, insomma, no? E poi c'era l'attività principale che per noi lì nella zona del nostro comune era l'attività primaria, ed era quello di questi carioti, possiamo chiamarli carradori, carrettieri. Che cosa facevano? Andavano sul Piave, raccoglievano i sassi, ma dovevano essere sassi particolari, dovevano conoscerli molto bene, caricarli sui carri e portarli poi alle fornaci per farne calce. Questa era un'attività, diciamo, di primaria importanza. Certo. E naturalmente non vivevano solo di questo, perché avevano un po' di appezzamenti di terreno, lo sviluppavano al massimo. Quindi per loro il Piave era una mamma. Ecco perché l'uso del femminile a Piave. Ho capito, sì, sì. Io così proporrei, se vorreste leggere qualche piccolo saggio. Certo, io partirei da una cosa che a me è sempre piaciuta, la religiosità che c'era in questi paesi. Erano un po' tutti, insomma, a modo loro religiosi, diciamo che coincideva una volta la comunità civile con quella religiosa. Religioso, esatto. E qui ho ambientato un racconto sulla festa della Madonna. una devozione della Madonna che c'era lì proprio saletto. Santa Messa, leggo adesso, Santa sì. Messa in terzo cantata come nelle feste grandi di Pasqua e Natale. Processione dalla chiesa al confine della parrocchia, voltando attorno ad un enorme e frondoso platano che accoglieva un'edicola raffigurante Sant'Antonio di Padova. Una breve tappa per un Pater Ave Gloria e una benedizione per implorare il santo affinché proteggesse le case e il paese da ogni sorta di male, ripeteva sempre il curato, soprattutto di tipo spirituale, sempre il curato, ma i fedeli per la verità erano molto più concreti e immediati. Nelle invocazioni preferivano chiedere al santo di Padova di mandare buoni raccolti e di salvaguardarli dalla grandine, un vero e proprio incubo per i contadini. E poi continua. Lungo il tragitto i davanzali delle case erano addobbati con i drappi più preziosi conservati nel cassone che solo alle nonne era consentito di aprire, quasi sempre copriletti ricamati a mano. In qualche casa padronale erano esposti damaschi rossi che contrastavano con la povertà dei fedeli che passavano recitando il rosario e cantando inni alla Vergine, ma che molto spesso si lasciavano tentare da tutt'altri argomenti, ed è perciò che Don Luigi, prima di uscire dalla chiesa per la processione, raccomandava: «Ora andiamo in processione con la statua della Madonna, percorriamo le nostre strade con fede e devozione», e scandendo bene le parole aggiungeva: «Camminiamo in ordine su due file, uno dopo l'altro, senza distrazioni». Appena usciti la cosa funzionava, ma poi a mano che il corteo procedeva, mentre le pie donne, velo in testa e corona del rosario in mano, cantavano con ricoglimento, gli uomini cominciavano ad appaiarsi e tra un ritornello ed un salmo, quasi per divina ispirazione, trasferivano le loro argomentazioni sull'andamento dei raccolti, sulla produzione del latte, sull'asino da comprare alle fiere di Santa Lucia, sul vitello appena nato, e lo facevano con espressione così dimessa da meritarsi anche l'elogio del parroco che dalla sua posizione li vedeva tanto presi da un profondo sentimento religioso da sembrare tanti monaci in meditazione. Che bello, bene, complimenti. Dello stile. Era così una volta. Così era così, proprio così. E che giorno era questa festa? È la festa della Madonna del Rosario. Quindi in ottobre, prima domenica di ottobre. Prima di ottobre, ed è proprio effettivamente la patrona della parrocchia di Saletto, che è uno di questi due paesi nei quali io poi ci inserisco proprio il romanzo, i personaggi. Bene, allora andiamo a leggere qualcos'altro. Vediamo, allora, questa qui che è molto simpatica, un'altra figura particolare era la maestra. A scuola Ciso, che è uno dei due protagonisti, aveva imparato molto sul fiume, ma i libri, secondo lui, tante cose non le raccontavano, oppure le raccontavano a modo loro. Vani erano gli sforzi della maestra di alfabetizzare i bambini come volevano i programmi. Esprimersi oralmente per loro era già un'impresa. Farlo in una lingua diversa dal loro dialetto corrente significava parlare arabo. La loro lingua era quella della destra piave, o meglio ancora, il salettano. La grammatica era una pena. Alla banale richiesta della maestra di analizzare il termine piave, qualcuno rispondeva: «Nome proprio di persona, signora maestra». «Ma come di persona?» «Eh sì, signora maestra», ribatteva prontamente il più bravo della classe. «Mio papà mi ripete sempre: rispetta la piave, è come un cristiano, nasce, si nutre, cresce e muore. E se lo stai ad ascoltare bene, lo senti anche respirare. Se ti fermi un po', sentirai battere il suo cuore». La maestra, all'inizio della carriera, avrebbe segnato con la sua matita rossa doppio errore, ma dopo anni di presenza nelle scuole della destra e sinistra piave aveva capito che nascere a Treviso, da dove arrivava tutte le mattine con una bicicletta che per quanto mai ridotta le era invidiata dai suoi alunni, o nascere qui in questo luogo dimenticato dal mondo eppure così sereno, non era la stessa cosa. Ormai anche lei si era rassegnata all'idea che piave ed abitanti erano la stessa cosa, e dunque anche il vocabolario e le rigide regole della grammatica e dell'analisi logica avrebbero dovuto piegarsi alle ragioni del cuore di queste popolazioni. Belli, che belli. Sì, ma questo è proprio un... ricorda un po' il piccolo mondo di Don Camillo, di Don Camillo, Guareschi, sì, e sì, compagnia. Sì. È un'aura, un qualcosa di molto particolare che è difficile da spiegare per chi viene da fuori. Ma nei paesi è così, sì, anche da noi era così. Era un po', proprio sì, così. Sì. Infatti io ho cercato, ecco, in questo romanzo, ho cercato di entrare proprio nella gente. Sì. Cercare di, come dire, spostarmi continuamente da un personaggio all'altro, entrare proprio nelle figure di personaggi. La storia dei minimi, sì, esatto, la storia delle piccole persone. In sostanza, questo romanzo si svolge a Saletto. Si svolge a Saletto e c'entra Negrisia perché i due protagonisti sono un ragazzo della destra Piave, quindi di Saletto, e una ragazza della sinistra Piave. Quella, la ragazza della sinistra Piave, era un po', apparteneva alla famiglia dei commercianti, quindi era un po' più avanzata come famiglia dell'altra. E qui dentro c'è proprio questa storia di questa ragazza che quando arriva di là a Saletto ed entra il primo giorno nella cucina dove sono tutti, cioè non c'era il posto per le donne erano tutte attorno al focolare. E lei invece entra proprio vicino al marito e dice: io a casa mia ero abituata a sedermi normalmente a tavola, mio marito è seduto qui, qui a fianco del mio marito c'è anche il mio posto. E lì il capo uno stravolgimento e rimane, non sa più che cosa dire e alla fine incomincia a capire che forse i tempi sono cambiati e allora gli versa un buon bicchiere di vino perché tutti erano attenti a vedere che cosa faceva sto vecchio, sto Tita. E lui gli versa un bicchiere di vino, dice: bene, ti siederai lì, prendi però, bevi questo bicchiere di vino che così diventi un po' più rossa di quanto non lo sei. Ma una volta dicevano... Esatto. E quindi c'è sullo sfondo anche questo cambio sociale. Cambio di epoca, cambio della civiltà, il tramonto della civiltà. Esattamente, diciamo, quindi questo sì. Beh, allora ci fermiamo per un'altra canzone e poi proseguiremo con la nostra lettura. Allora, il primo giorno di primavera, cantato dai Dick Dick. Giorno ormai Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Alfonso. Niente, volevo leggervi sempre dai Carioti della Piave un brano, un altro brano. Di lì a pochi mesi se ne sarebbero andati tutti e due. La prima ad aprire la strada era stata Ida. In una fredda serata d'inizio inverno erano tutti attorno al focolare e avevano appena messo ad arrostire poche manciate di castagne, mentre Beppi si stava occupando di bruciare il vino per preparare il brûlé. Nonna Ida, seduta con la vecchia gatta che non vedeva l'ora si sedesse per saltarle sulle ginocchia, stava disfacendo un drappo di lana per avvolgerle in un gomitolo da poter poi riutilizzare per un nuovo capo. Con una mano guidava il filo di lana e con l'altra faceva girare il gomitolo sempre più voluminoso. Di tanto in tanto una strusciata, con il dorso della mano, alla testa del gatto per farlo desistere ad ingarbugliare il filo di lana con la sua zampetta furba e abile. Era silenziosa quella sera, non aveva mai aperto bocca se non per assentire o dissentire rispetto ai discorsi che venivano fatti. Ad un certo punto i movimenti di riavvolgimento della lana cominciarono ad allentarsi e a farsi sempre più irregolari fino a fermarsi del tutto. Un silenzioso e breve rantolio, coperto dalle voci rumorose dei bambini, attirò l'attenzione di chi le stava vicino, ma pochi si accorsero di quanto stava accadendo. Tita guardò il suo capo reclinato, provò a chiamarla, ma non ebbe risposta e capì. «Cos'ha la nonna?» chiese Anna, che si era accorta che qualcosa non andava. «La nonna si è addormentata», rispose Betta per non allarmarla. «Ora la portano a letto». Ida si era spenta lentamente come una candela, attorno al focolare e attorniata dalla sua famiglia, senza far tribolare nessuno, come aveva sempre desiderato. Tornando dal cimitero, al calar del sole, Tita, immobile e ammutolito sulla carrettina condotta da Ciso, aveva provato una forte sensazione di solitudine che l'avrebbe accompagnato negli ultimi mesi di vita. Che bello. Allora Tita era il nonno? Tita era il nonno era questo capostipite, una figura molto dura, di roccia, insomma, no? Sì, come era necessario, perché le famiglie erano numerose, ognuno doveva avere i suoi compiti. Era una società, come dire, abbastanza gerarchizzata. Sì, bene, esatto. Anche le famiglie. C'era, era il patriarca di sostanza. Decideva tutto lui. E però era una società che guai se non ci fosse stata in quel periodo lì. Anarchia più assoluta. E qui attraverso la sua figura io affronto il tema della morte con una certa naturalezza. Sì. Perché oggi noi tendiamo a rimuovere pensiero della morte, mentre invece in quel periodo lì la morte era un fatto naturale, era un fatto, e soprattutto vissuto nella famiglia assieme a tutti. Esatto. Molto spesso oggi uno è molto lontano, tante volte anche muore in solitudine. E qui io volevo affrontare questo tema, l'ho fatto in questo modo prima con la nonna, perché in realtà il problema che viene affrontato nel libro è anche quello di queste morti che succedevano nel Piave. Il Piave sì, dava tutto, era una mamma, però molto spesso chiedeva la vita di qualche bambino. E qui alla fine si tratta di un romanzo che ha una sua morale. Perché la cosa che poi viene affrontata più avanti è la morte di una ragazzina di 9-10 anni. Il fatto è successo realmente. Tant'è vero che lo spunto io l'ho preso proprio da questa. Una sera ero ancora sindaco allora. E una famiglia mi ha invitato: sindaco, ti fermi a casa nostra stasera? Mi avevano visto. Sì, dico, mi fermo. E parlando di tutte queste vicissitudini, uno dei fratelli di questa ragazzina che era morta mi raccontò di questa tragedia che aveva colpito la sua famiglia. E questo è stato lo spunto. È chiaro dopo, naturalmente, però anche qui la morte viene affrontata in modo naturale, anche di questa ragazzina. La conclusione naturale della vita. Anche perché purtroppo fa parte, questa è la cosa. Per quanto possiamo cercare di rimuoverla, Poi quelli che abitavano lungo il Piave avevano proprio questo concetto, come dire, qualche volta il Piave ti chiede qualche sacrificio, devi affrontarlo, con serenità, con dignità e darti da fare comunque. Invece noi, almeno per quanto riguarda me, si ha paura della morte, si ha paura di tutto ormai, perché esattamente anche queste televisioni, questi giornali ti martellano, è tutto ti martellano, il sistema della quindi, società attuale che fa. Cioè, sì. Non vivi più serena, una volta vivevano sereni e quando capitava certo. Insomma, che era, comunque è molto bello quella descrizione della nonna che muore, sì, molto. Ecco, Leggete qualcos'altro che dopo ci fermiamo. Sì, allora io leggerei un'altra parte che è quella di questa bambina sì, di sì. Questa bambina che a un certo punto a questo incidente. Allora lei stava giocando, stavano tornando dalla chiesa con la mamma e a un certo punto la bambina aveva un suo nascondiglio lungo il Piave e chiede di andare a giocare. Era sul nascondiglio, lei ci va. E qui aveva il cane e vediamo cosa succede. La vista di due folti ciuffetti di mammole bianche e violetta barbicati alla scarpata che precipitava bruscamente sulla profonda busona incastonata nell'ampia ansa creata dal ramo destro della Piave, la bimba non resistette alla tentazione di raccoglierli. Erano i fiori più banali e più rustici delle boscaglie e delle rive dei fossati, ma rappresentavano anche i primi inconfondibili segni della primavera. Si sporse con cautela tenendosi con una mano ad alcuni rami del salice e allungando l'altra per raggiungere i fiorellini, mentre Fosco, il cane, dimenava nervosamente la coda e raddrizzava le orecchie senza battere ciglia. Un improvviso scricchiolio l'allarmò e le fece venire i brividi. Cercò di rialzarsi per correre via veloce, ma troppo tardi. Si sentì mancare il terreno sotto i piedi e si sentì scivolare irrimediabilmente con una grossa zolla di scarpata verso l'acqua. La bambina lanciò un urlo disperato e si aggrappò furiosamente e con tutte le forze ai rami che sporgevano e ai ciuffi d'erba che le sue mani convulse riuscivano a trovare. Fosco, accortosi di quanto stava accadendo, ebbe l'istinto di agguantare la maglietta della padroncina. In un estremo tentativo di trattenerla, ma fu trascinato con lei nel rovinoso distacco della riva. Furono pochi attimi di violenza, agitazione, che non le diedero nemmeno il tempo di pensare a che cosa stava succedendo. Non ebbe il tempo di pensare nemmeno alla mamma, che poco più in giù stava lavando la biancheria, né al papà, che qualche centinaio di metri più in su stava caricando sassi sul carro. Precipitò con i ciottoli e il sabbione nella sottostante profonda ed insidiosa busona, e raccolte le residue ormai deboli forze, provò a nuotare, come le avevano insegnato fin da piccola, ma inutilmente, perché si sentì risucchiare con una tale forza che neppure il più abile nuotatore sarebbe riuscito a vincere. Persa ormai ogni speranza, Natalina chiuse gli occhi e lasciò che gli eventi seguissero il loro corso. Ebbe un ultimo sussulto prima di confondersi con l'acqua. Le sembrò per un attimo di rivedere il cielo, ma ripiombò subito nell'incubo della disperazione. Almeno avesse potuto chiamare qualcuno, o gridare, o urlare, «Mamma, mamma!» Vinta del panico, in preda alla più completa impossibilità di reagire, provò a tranquillizzarsi, convincendosi che quanto stava accadendo fosse soltanto un sogno, semplicemente un brutto sogno. Un sogno come tanti altri, dal quale però non riusciva a risvegliarsi. Furono attimi di convulsione, di smarrimento, a metà via tra l'affermazione della propria esistenza e la percezione dell'annientamento del corpo. Fu allora che le apparve il vecchio nonno Tita, burbero e allo stesso tempo tenero, così come lo aveva conosciuto nei primi mesi di vita quando la prendeva sulle sue ginocchia e le raccontava le prime fiabe. La accolse a braccia aperte con la naturalezza di chi è in attesa di un incontro già previsto e l'affettuoso trasporto riservato ad una persona che si rivede dopo tanto tempo. La prese per mano e la riportò nel suo nascondiglio segreto, ai piedi del salice e del gelso che l'avevano attirata fin da bambina. Non riuscì più a rendersi conto se era tornata indietro nel tempo o se stava sognando. Tutto intorno il paesaggio era diventato surreale. I verdi degli alberi, delle piante e dei cespugli molto più dolci. Il cielo aveva assunto un azzurro così intenso come non si era mai mostrato e lei si sentiva più leggera di una foglia. Si sedettero uno di fronte all'altro e il nonno cominciò a raccontare. Natalina le conosceva tutte, ma questa non era sicura di averla già sentita raccontare dalla mamma o dal maestro Emilio. Vedi, Natalina, questo salice e questo gelso che ti hanno vista giocare fin da piccola con i tuoi amici, tanti ma tanti anni fa, non erano alberi, ma sono stati il corpo di due invisibili creature silvestri, Perlina, la regina delle grave, e Nautilus, il re dei pesci di fiume. E poi racconta questa storia, per cui questa bambina non riesce più a capire se si trova nel mondo reale o quello oppure. E c'è questa figura di nonno che io recupero, perché il nonno è quello che era molto presente allora, come lo è anche adesso, per la verità, ma allora molto di più. E quindi ecco questa tragicità, perché è un fatto tragico, una bambina di 9 anni che muore annegata. Però ho cercato di immaginare come può avvenire per una bambina questo passaggio. Ecco che introduco questa figura del nonno, per cui anche il lettore non riesce più a capire, è racconto reale, questo passaggio che a me è sembrato di dover inserire proprio per affrontare ancora una volta per rendere sopportabile la tragedia. Tragedia. Ma è molto bello, è un argomento un po' analogo sulla morte, l'abbiamo affrontato qualche trasmissione fa con il professor Uffilli. Mi piace molto questo discorso. Perché veramente ti aiuta anche e a riporta certe cose. Realtà che abbiamo cercato di accantonare, che ritorna evidente prepotente ogni volta, naturalmente. Sì. Allora, ti ascoltiamo un'altra canzone. Che vuole questa musica stasera? E la canta Peppino Gagliardi. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi. Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Passato, riporta un poco del tuo amore, che mi riporta un poco di te, un poco di te. Eccoci il nuovo studio. Ascolta Alfonso, sì. Hai detto adesso che stai scrivendo dei racconti, sì. Ma hai così progetti ancora per il futuro? Io spero entro la fine di quest'anno di pubblicare proprio questa serie di racconti. Erano dei semplici appunti che io avevo, perché quando vado in montagna ho un blocchettino, mi segno 2 o 3 parole, tanto per ricordare. Parole chiave. Parole chiave. Me le sono riprese in mano e fanno parte di tutta una serie di ricordi. Può essere un animale che ho trovato, uno scoiattolo, la curiosità di una marmotta. Ecco, tutti questi fatti qui che poi diventano racconti, dove c'è chiaramente, oltre al fatto, anche una riflessione, certo, sul senso del mio andare in montagna, certo, sostanzialmente. Certo, certo, sì, certo. Quindi, insomma, racconti e poi... Racconti e poi sarà corredato da tutta una serie di immagini, invece, attraverso le quali affronto alcune tematiche, da quella della solitudine, sì, sì, sì, a quella, sì, dell'imprevedibilità, sì, di un temporale. Ecco, tutte queste cose qui le affronto con una serie di immagini che per me rappresentano un po' la mia storia anche. Questo, dicevi, questo libro è stato pubblicato da Piazza, editore? Allora, il libro I Carioti della Piave è stato pubblicato da Piazza, che ha avuto fiducia con me anche con altri libri, per la verità. Anche Misteri in Villa me l'ha pubblicato lui, doveva essere un saggio, poi è diventato romanzo. E questo qui, sono state fatte queste 2 edizioni e sono andate finite, per la verità. Quindi non si trova in qualche libreria, non so. È molto improbabile, però chiedendolo direttamente all'editore Piazza è molto probabile che ne abbia qualcosa in deposito, quindi possono ancora averli. Oppure nelle biblioteche, esatto, di Breda, in nel quelle circuito, vicine, nel circuito, diciamo, sì, esatto, le trovano senza altro. Sì, sì, sì. Sì, perché penso che dopo aver ascoltato tanti desidereranno magari leggere qualcosa, no? Esatto. E quindi almeno sapere dove si possono trovare. Ecco, ma e gli altri romanzi tuoi, sì, si trovano? E gli altri sono sempre edizioni che fino a quando escono vanno via, diciamo, no? Poi io generalmente evito di fare una ripubblicazione, una ristampa, perché una ristampa cerco di rivedere prima, no? Sì. E allora mi distoglie dal fare qualche cosa di nuovo. Allora, fino a quando io posso e ho, come dire, cioè, l'idea, la sorgente, preferisco limpida, dire, lo scrivo, escono un certo numero di copie e quelle vanno, e poi penso, già, esatto, guardando in avanti, insomma. Ah. Siccome in avanti ne ho già in cantiere altri 5 o 6, allora non faccio le edizioni. Alla faccia della prolificità. Certo, diciamo, certo. Io ho saputo tardi che tu scrivevi, non sapevo che eri anche scrittore. Mi anche piace, generalmente scrivo proprio nel tempo libero, sì, la sera. Sì, sì. Sì, ma hai scritto tanta certo tanta che roba. Sì. Scrivere è una cosa, i libri stanno erano stati dati per morti già, certo, tempo addietro, eccetera, lo sono anche recentemente per via dell'ebook e sì, compagnia. Sì. In realtà, anche alla Fiera del Libro di Torino, eccetera, si trova che c'è una inversione di tendenza, sì, un cambio a uso, cioè si ritorna, certo, soprattutto da parte dei ragazzi e dei bambini, sì, al libro come oggetto. Cartaggio. Di... Esatto. È una cosa straordinaria. Questo cioè, è... E quindi troppo i facili profeti, sì, diciamo, sì, hanno avuto, perché l'immagine, eccetera, ma qui c'è l'immedesimazione, certo, nelle storie, sì, altrui, nell'apertura, chiaro, della mente, eccetera, nella modifica addirittura fisica del cervello. Certo. Anche leggere questo è qualcosa di... un atto straordinario. È meraviglioso, eccetera, leggere, veramente. Ecco, io avevo una domanda piuttosto, sì, da dimmi, fare. E, diciamo, 2 passioni grandi, la Piave e la montagna. E la pianura e la montagna sono antitetiche o complementari? Come no, ambienti? Sono complementari, soprattutto dal punto di vista mio personale. Allora io vedo ogni ambiente come la casa dell'uomo. Per me non esistono frontiere. Non c'è contrapposizione. Non c'è contrapposizione. E quello che dobbiamo fare in pianura è quello di viverla, ma di rispettarla. La montagna è la stessa cosa. Per viverla bisogna che la gente ci sia. Ma per rispettarla significa che non dobbiamo antropizzarla eccessivamente, dobbiamo lasciare che anche nei luoghi vicino a noi ci siano spazi di dove uno può incontrare ancora una sua solitudine, lo stare solo con la natura, il senso dell'avventura ancora che può esserci anche nelle nostre montagne. Basta uscire di 10 minuti, un quarto d'ora dai luoghi classici, da un rifugio, e noi andiamo già in mondi incontaminati. È questo che a me piace incontrare, sia nella pianura e sia nella montagna, ed è possibile fare ancora questo. E questo dovrebbe essere un monito per gli amministratori, secondo me, ai vari livelli, perché ho l'impressione, io ricordo sempre un videoclip che si trova su YouTube di Andrea Zanzotto, Beppi Mazzotti, con Walter Baliana e Toti Dal Monte, dove si parlava nel 1972 di devastazione del paesaggio. Esatto. Oltre 40 anni fa già si parlava di questo, quindi non è vero che non ci fossero dei testimoni all'epoca. Certo. E quindi io credo che debba essere a maggior ragione oggi vista in questi termini la salvaguardia del creato. Ma hai fatto bene a dire questa cosa qui, perché il senso più profondo di questo romanzo, l'idea proprio che sta sullo sfondo, è questa. Come dire, anche il Piave dice: guardate, prendete tutto quello che vi serve, ma non sfruttatemi a fini speculativi, commerciali, eccetera. E il Piave si comporta bene fino a quando la gente chiede solo di vivere con le sue risorse. È nel momento in cui incomincia lo sfruttamento anche il Piave fa quello che vuole. Si ribella. Allora, leggiamo ancora qualcosina. Ecco, mi piacerebbe quest'ultima parte, perché le piene sono una cosa normale per loro. Si arrabattano, ci sono morti, c'è di tutto, però che cosa succede? Trascorsero il resto di quella nottata da incubo, parlando di tutto, allontanando ancora per qualche ora dai loro pensieri la tragica realtà devastante della Piave. Intanto la pioggia aveva cominciato a diminuire di intensità e il vento si era calmato. L'acqua era sempre tanta, ma il suo livello continuava a scendere, anche se molto lentamente. I gravaioli, rintanati nelle loro case circondate ed invase dall'acqua, cominciavano a tirare un respiro di sollievo, mentre i loro familiari, accolti da amici e parenti oltre l'argine, continuavano a pregare e a vivere ore di ansia per i loro cari. Alle prime luci dell'alba, agli occhi di tutti, si sarebbe presentata una desolante situazione di distruzione di 2 giorni di piena, e ci sarebbero voluti mesi e mesi per riprendere la vita in una situazione di accettabile normalità. Eppure, se qualcuno avesse chiesto a quei temerari che cosa avrebbero fatto nei giorni seguenti e nei mesi futuri, non ce ne sarebbe stato uno a rispondere che avrebbe abbandonato la propria casa nel fiume. Questo, come dire, affrontiamo tutto nella vita, siamo e qui dobbiamo rimanere. Però poi dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, perché quando l'ambiente è nostro non c'è nessuno e il messaggio è questo, insomma, noi possiamo vivere tutto quello che ci capita nella vita, ma dobbiamo sempre essere pronti a reagire, anche a rimboccarci le maniche di fronte all'avversità, e non esserne travolti, e questo gestire l'avversità, gestire il cambiamento, eccetera. Antonio, adesso parlo di un argomento che so che a te non piace. Oggi è stata la festa della mamma. Non è che non mi piace, attenzione, io al massimo. No. Cosa dici tu, che è una festa? No, io dico che è una festa commerciale. Non è il problema, non è la festa, quanto l'uso che se ne fa. Quando ogni pretesto diventa buono per un uso puramente commerciale, ne viene svuotato il sentimento, secondo me. Io credo, a meno che io non possa essere considerato un bacchettone d'altri tempi, cosa che io non credo di essere, credo che anche attraverso questo rinsavimento, cioè riuscire a capire quali sono le cose che vanno e quali non funzionano, passi il nostro, attraversamento verso un'epoca nuova, un'epoca più sobria, un'epoca meno consumista per il consumismo stesso. Comunque, viva la mamma! Ecco. Viva la mamma! Bene, ecco. Viva la mamma! E ce la canta Edoardo Bennato. C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh, oh, ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Alfonso, il quale naturalmente concluderà degnamente questa puntata estremamente, come dire, eccitante e fantasiosa. Certo, sì, sì, veramente bella stata. Alfonso, allora... Ma guarda, io quel libro, questo libro di cui ho parlato, e l'altro a cui accennavi tu, Gesuina, la Sinfonie di Silence, sì. Emozioni tra le Dolomiti, ecco, nasce da questa, intanto, mia grande passione per l'ambiente. Quando uno ha passione per l'ambiente, passione anche certo, per l'uomo, per la persona. Certamente. E io sono abituato a vedere in ciascuna persona un qualche cosa di irripetibile. E generalmente, difficilmente, ecco, io esprimo delle critiche come dire negative, insomma, se non una critica positiva, questa la si fa sempre con gli amici. Certo. Ma a me sembra, almeno ho questa visione, di vedere in ciascuna persona un qualche cosa di positivo. Noi siamo irripetibili, ognuno è irripetibile. E a me piace vedere queste cose qui, sia in chi frequenta l'ambiente della montagna con me, perché la montagna è quella che forma proprio, a mio avviso, le persone, nel senso che devi avere quella calma, quella tranquillità, devi avere serenità nell'affrontare, devi avere anche una certa forza, una certa... Però quando tu arrivi su una cima e guardi giù, tu non vedi le diatribe tra le persone, una situazione, tu vedi ineguagliabile, qualche cosa che per me fa vedere qual è il mondo. Qual il mondo è una sì. situazione armonica dove la gente esatto, deve andare d'accordo, e queste emozioni io le provo proprio quando arrivo in una cima. Bene, spariscono tutti quanti. Tutte le fatiche, le cose accessorie, si respira, allora, proprio ci si ritrova con se stessi, certo, e questa certo. è una cosa, e probabilmente questo è uno dei punti fondamentali, esatto. Cioè uno riesce a ragionare con se stesso, riesce a capire i propri sentimenti più profondi. Ecco qua. Bene, noi ti ringraziamo, Alfonso. Grazie, e... Gesuina, e a te. Naturalmente io mi sento di poter, come dire, prenotare il nostro ospite anche per altre occasioni. Perché è stato... Quando vorrete ci sarò, ecco, senz'altro. Sì, sì. Ok. Senz'altro. Benissimo. Allora non ci resta che dare salutare le nostre amiche e i nostri amici e dare appuntamento a una prossima volta che speriamo essere, come dire, gratificante per noi e spero anche per voi. Speriamo che il prossimo ospite sia come questa che abbiamo gratificante vissuto. Come il nostro Alfonso. Certamente. Grazie. Benissimo, allora salutiamo tutti con affetto e col solito ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.